Diritti e rovesci, in collaborazione con Adico, Associazione Difesa Consumatori. Bentrovati da Francesco Galante, ma soprattutto un saluto ai nostri amici dell'Associazione Difesa Consumatori di Mestre, l'Adico. Abbiamo con noi al telefono Gianluca Codognato. Ciao Gianluca. Ciao Francesco e un saluto ai radioascoltatori. Allora Gianluca, oggi tocchiamo l'ennesimo caso che vi è capitato di seguire di bollette pazze. Questa è una bolletta super pazza. Sì Francesco, tra l'altro non è la prima volta che ci troviamo di fronte a queste cifre, a dire il vero. In questo caso stiamo parlando di una cifra enorme per un consumo di gas, uso domestico. Una bolletta che è arrivata a un ingegnere di Treviso, e una bolletta che è arrivata ancora nel 2011 con una cifra appunto spropositata per il consumo domestico del gas, una cifra pari a 46.000 euro. Scusa, 46.000 euro per l'uso domestico del gas, va bene che uno si può riscaldare, ma caspita ce ne vuole. Sì, tra l'altro Francesco, qua non stiamo parlando appunto di cifre per i consumi, ma è un conguaglio, quindi praticamente sono dei ricalcoli effettuati in questo caso da Enel, dei ricalcoli che evidentemente hanno portato a una cifra spropositata, per cui addirittura non è una bolletta per consumi, ma è un conguaglio di 3 anni e pari appunto a 46.000 euro. Non possiamo pensare cosa abbia detto questo ingegnere quando ha aperto la fattura, fatto sta che comunque da quel momento, lui ovviamente non l'ha pagata, ha cominciato a contestarla fondamentalmente, e da là insomma è cominciata la sua battaglia che diciamo noi per fortuna si è articolata nel 2015 con la richiesta d'aiuto all'Adico, quindi alla nostra associazione, e devo dire che da quel momento abbiamo fatto un lavoro molto duro, molto lungo, abbiamo coinvolto ovviamente l'autorità garante per l'energia. Di recente da questi 46.000 euro per ora ne sono stati stornati 35.000, che è già un'ottima cifra. Ora andremo anche a lottare per gli altre migliaia di euro che mancano, almeno insomma per cercare di togliere un'altra parte. Resta il fatto che però appunto dopo una lunga battaglia, veramente una battaglia durata 4-5 anni, e noi siamo intervenuti in realtà nel 2015, per fortuna almeno un bel peso è stato tolto a questo ingegnere, almeno 35.000 sui 46.000 richiesti. Devo dire Francesco che appunto è stato un lavoro duro da parte del nostro ufficio legale, perché abbiamo dovuto ricoinvolgere ovviamente l'autorità garante per energia, abbiamo dovuto recuperare il contatore, che probabilmente è stata la causa di tutto, che era stato cambiato ancora nel 2012, e da lì la stessa autorità ha chiesto appunto al fornitore di rioperare i calcoli sul consumo, guardando i consumi attuali, e da lì insomma si è scoperto che evidentemente questa persona per uso domestico non poteva consumare così tanto da ritrovarsi un conguaglio da 46.000 euro. Beh, questo verrebbe quasi ovviamente da pensarlo, senza stare lì a far tanti calcoli, perché insomma, o questo ha una reggia da riscaldare, oppure se è un appartamento, una casa normale, insomma i consumi medi li conosciamo praticamente tutti. Beh, interessante che siate riusciti con il vostro lavoro, con la vostra attenzione, a riportare la cifra a un valore un po' più basso, e appunto mi sembra di capire che contate di lavorarci ancora. Sì, contiamo di vedere anche per la cifra rimanente se riusciamo a togliere ancora qualcosa, speriamo insomma di farcela. Detto questo, la vicenda insomma, per allargarla un po' anche agli altri utenti, insegna qualcosa. Beh, insegna innanzitutto che, come abbiamo detto molte volte anche durante la vostra trasmissione, non bisogna mai arrendersi di fronte a una bolletta che riteniamo ingiusta. Molte volte, sai Francesco, le persone dicono: beh, ma vuoi che il fornitore si sia sbagliato? No, sto zitto e pago. Invece, è chiaro, qua ci siamo trovati di fronte a una bolletta da 46.000 euro e sarebbe stato assurdo non contestarla, però anche se ci troviamo di fronte a delle bollette molto meno alte, però che riteniamo ingiuste, mi raccomando, bisogna assolutamente reclamare e fare una contestazione, perché molto spesso il fornitore sbaglia. Di contro, diciamo che la cosa ideale sarebbe quella di fare sempre l'autolettura, perché con l'autolettura siamo certi che insomma quello che ci verrà chiesto nella bolletta sarà esattamente quello che abbiamo consumato. Quindi il consiglio è quello anche di fare l'autolettura. Nel caso in cui non la facessimo, un altro consiglio, se riteniamo che la nostra bolletta, la cifra richiesta sia sproporzionata, è quello di controllare i consumi segnalati in bolletta e di andare a vedere nel nostro contatore quanti consumi reali abbiamo effettuato. Questo ci può aiutare a capire se ci sono stati degli errori da parte del fornitore. Ecco, poi una cosa che si può fare è anche chiudere veramente i rubinetti del gas e vedere se il contatore gira, perché vuol dire che a quel punto potrebbe esserci anche una perdita. Magari non la sentiamo, non ce ne accorgiamo perché non si sente l'odore, ma potrebbe esserci. E quello può essere anche un altro problema. E una cosa che rileviamo, e questo bisogna dirlo assolutamente, Francesco, è che quando avviene un cambio di contatore molto spesso arrivano anche dei problemi nelle bollette successive. Quindi insomma stiamo sempre un po' attenti quando ci viene cambiato il contatore, dobbiamo recuperare la lettura di chiusura, e quindi insomma sempre massima attenzione, perché talà molto spesso nascono poi delle problematiche e delle bollette molto elevate. Certo, io ho fatto delle foto proprio al contatore vecchio e a quello nuovo con i numeri e ce le ho salvate da parte, quindi quando me l'hanno cambiato l'anno scorso, va bene. Lo diciamo, sì, che così può essere sempre una cosa interessante è da ricordare. Bene, grazie all'Adico. Ricordo il sito www.associazionedifesaconsumatori.it, dove trovate tante notizie interessanti e i contatti anche per chiamare l'Adico. Grazie a Gianluca Codognato, ci ritroviamo tra qualche giorno. Grazie a te, Francesco. Diritti e rovesci, in collaborazione con Adico, Associazione Difesa Consumatori. Per riascoltare questo programma, vai su bluradioveneto.it.